conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato mattina qui assolata a Milano, ma da molte altre parti d'Italia dovrebbe essere così. Questo sabato 7 novembre siamo in diretta alle 10:08 primi 24 secondi, l'intera compagnia dei compari dei Conti della Belva vi saluta. Buongiorno, Renato Cifarelli sono. Carlo Alberto Carnevale Maffè, sempre io. E Mario Seminerio. Eccoci qua, c'è un mix di voci di Montalbano, ancora un po'. Sembra Montalbano. Renato Cifarelli sono. Perché volevo dire buongiorno, poi mi è venuto in mente dovevo presentarmi perché non esatto, così non funziona. Era una cosa è andata così, dai. Tra il vecchio maresciallo di polizia. Allora, comandante dei RIS, se diciamo devo che dire. Tanto Cifarelli non è esattamente un nome da bolzanese, esattamente, quindi... esattamente. Beh, guarda, io devo dire la verità, a proposito di bolzanese, ieri, grazie a Sergio Rizzo, come sempre il Corriere della Sera, quando ho visto le cifre aggiornate di quanto guadagnano a netto il Presidente del Consiglio, il Presidente di Provincia e il Presidente delle Regioni, cioè siamo sempre autonomi, in Italia, sì, ho capito, ma che senso ha a netto il Presidente del Consiglio? Noi lo criticheremo tanto, non ha alcun merito di questo, ma le norme attuali prevedono che guadagni a netto 5.500 euro più o meno. Un barbone praticamente. No, beh, però poi vai a vedere il Presidente la provincia di Bolzano, ma perché deve guadagnare 12.000? Perché il presidente delle regioni c'è chi guadagna 10.000, 11.000, chi 10.000, chi 9.000, chi 8.000? Cioè, che stato perché è siamo questo? In Italia. Siamo in Italia, no? Beh, lì non siamo in Italia, esatto. E Bolzano non siamo in Italia. Hanno il meglio dei due mondi: hanno l'efficienza teutonica e i soldi italiani. Perché che volere di più della crocetta deve arrivare a 11.000? Cioè, siamo sempre lì. Cioè, perché è arrivato la quarta giunta, allora lo paghiamo di più. Ogni giunta ce ne vuole. E c'è gli scatti di anzianità probabilmente, sì. Allora sentite cari ascoltatori, noi come sempre vi ricapitoliamo questa bella puntata che vi abbiamo cucinato, i temi, perché voi dovete iniziare a decidere se telefonarci all'800240024 e a dire la verità dopo il nostro, lo sapete, inizio scontato, ma obbligato in questo, non scontato, obbligato sui dati della settimana, come stiamo andando, e quindi con Mario Seminerio a che punto è la crisi. Dedichiamo due parti della trasmissione a due temi sui quali davvero ci aspettiamo che telefoniate all'800240024 oppure mandateci le vostre opinioni al 349-238-6666, perché inizieremo con una domanda specifica. Visto l'emergere del nuovo scandalo nella finanza vaticana, ogni papa dice che rimette tutto a posto, poi ogni papa ci fa riscoprire che tutto è a posto, manco per niente. E allora la domanda diventa: quando, se non adesso, mettere mano alla riforma dell'8 per mille, che è molto a favore della Chiesa Cattolica per come vengono interpretate le norme di questa legge che discendono dal concordato bis della Repubblica Italiana con la Chiesa Cattolica, con il Vaticano nel 1985, è 1 miliardo e rotti solo a vantaggio della Chiesa con l'anno, vi dico vantaggio perché quando si dice che fa crescere il monte dell'attribuzione e fa crescere il totale alla Chiesa contando quelli che non esercitano un'opzione, capite che è molto discutibile. Io sono perché quella norma sia incostituzionale, per esempio. Però insomma, e poi spendiamo tante altre belle cosette per le esenzioni, ve le ricapitoleremo perché sono più di 6 miliardi di euro l'anno. Allora, non per essere anticattolici, ma non è il momento giusto di porsi la domanda? Visto che continuiamo ad apprendere che mentre lo IOR ancora non è risanato, anche l'APSA faceva lo IOR parallelo, mentre sentiamo cardinali, presidenti della CEI dire che la colpa è del diavolo, come ieri faceva il cardinal Bagnasco, mentre continuiamo a sentire cardinali che di fronte alle metrature a centinaia di metri quadrati di appartamenti dicono che di non sapere chi ci ha messo i soldi per riattarli, come l'ex segretario di Stato Bertone, oggi sul Messaggero si apprende che hanno pagato quell'appartamento sia i fondi della Fondazione Bambin Gesù, già lo sapevamo, ma anche il Vaticano, e lui non ne sapeva niente, ma su, insomma, allora, prima parte della trasmissione su questo, naturalmente ci sarà una voce a favore, una contro, sentiremo voi. Seconda parte, le proposte che fanno molto discutere quelle avanzate dal presidente dell'INPS Boeri, E anche qui vi chiediamo, siete favorevoli a fare un intervento oltre una certa soglia delle pensioni retributive troppo di vantaggio per equità intergenerazionale rispetto a chi se le sognerà, ma vorreste poi utilizzare questa risorsa come propone Boeri per prepensionare e vorreste devolverla a una rete di sostegno del reddito dei più anziani? Non sono i più giovani il problema di cui occuparsi prioritariamente invece che occuparsi del sostegno attraverso il prepensionamento ai più anziani, non sono i più giovani il vero problema? Ecco, comunque telefonateci anche su questo. Rapido giro, oltre a questo che cos'è che vi ha colpito questa settimana, Mario? Allora, in corso di discussione del disegno di legge stabilità c'è l'istituzione di un fondo per la povertà educativa e questo fondo si prevede che possa essere alimentato anche dalle fondazioni bancarie. E per cui, diciamo, questo fa parte dell'oggetto istituzionale filantropico delle fondazioni bancarie, cioè qualcosa che fanno già. Però c'è un articolo del disegno di legge stabilità che prevede che le fondazioni bancarie debbano avere un credito d'imposta del 75% dei versamenti effettuati a tale fine, con un limite di 100 milioni annui per il triennio 2016-2018. Ora, qual è il problema? Che di fatto, poiché le fondazioni bancarie effettuano già interventi filantropici e di beneficenza nell'ambito della povertà, dell'educazione, eccetera, di fatto questo credito d'imposta è una restituzione alle banche dei tre quarti dell'importo che hanno erogato. Quindi, anziché, ad esempio, come io avrei proposto molto umilmente, stabilire che questo credito d'imposta può valere solo per i versamenti aggiuntivi rispetto all'importo dell'anno precedente, quello si mette sull'intero importo. Pertanto, se le fondazioni lo scorso anno hanno pagato 100 e il prossimo anno pagheranno 100, cioè non ci metteranno un euro in più, avranno indietro 75. Che cos'è questo se non un regalo palese e manifesto alle fondazioni bancarie, che arriva per l'ennesima volta a diciamo risanare, a restituire il torto dello scorso anno. Ricordi quando vennero tassati i dividendi percepiti dalle fondazioni bancarie, che prima erano esenti al 95% e adesso sono esenti solo al 22%. Nel frattempo, diciamo in itinere, le fondazioni bancarie si sono portate a casa anche un diritto di veto sul livello di pagamento dei dividendi della Cassa Depositi e Prestiti, cioè che non possono andare al di sotto del 60% dell'utile. Cioè nell'ultimo anno hanno ben più che recuperato la botta. Esattamente, cioè prima il governo Renzi con la stabilità dello scorso anno le ha praticamente tirato un ceffone potentissimo. Dopodiché ha passato l'anno successivo a cercare di emendarsi e a rimediare. Per cui trasparenza non è una cosa che abita in questo paese. Le fondazioni bancarie continuano ad avere, diciamo, dei privilegi fiscali abnormi, oserei dire, come dire, quasi vaticani, no? Probabilmente abbiamo tutta una serie di vaticani in questo paese e pertanto questa è una cosa che continua a farmi incazzare. E c'è anche chi dice che fosse il prodromo in cambio del fatto che alle fondazioni si chiedesse di intervenire nell'equity del sistema di salvataggio bancario della Bad Bank all'italiana, eh? C'è chi dice questo. No, io ho una causa civile da perorare, cari compari, perché questa settimana il comandante dei RIS, a un processo famoso, mediatico, con la Bossetti, ha dimostrato come se le istituzioni vogliono che ricambiamo il rispetto che loro devono a noi come cittadini, è il caso che se lo meritino questo rispetto. Ricordiamo perché che il RIS è il nucleo dell'investigazione scientifica dei Carabinieri. Dei Carabinieri, esattamente. Questo signore si è presentato in processo e ha risposto all'avvocato difensore dicendo sì, effettivamente noi il filmino che mostra il passaggio del furgone dell'imputato davanti al luogo del delitto l'abbiamo costruito per esigenze di comunicazione, prendendo dei fotogrammi un po' di qua e un po' di là, perché insomma c'era la procura che pressava e noi dovevamo assolutamente dare qualcosa in pasto alla stampa. Viviamo nella società dell'immagine, diciamo. No, attento però, perché se un mio studente si presentasse da me con una serie storica in cui mancano qualche dato, quindi come dire, se li ha inventati lui giusto per esigenze di comunicazione, io ovviamente lo prendo a calci e mi sembra giusto che vi aspettiate così, no? Ora vi domando perché non prendiamo a calci un rappresentante delle istituzioni che si permette di ammettere pubblicamente in un processo di avere taroccato in maniera clamorosa, una prova scientifica. E allora è chiaro che a questo punto io devo temere purtroppo che la prassi venga ripetuta altrove. Mi dispiace, questa cosa è veramente inaccettabile. Se avessimo un governo attento, invece che nominare cittadinanze onorarie, tutelasse le cittadinanze reali e quindi tutelasse il diritto del cittadino a ricevere un processo giusto basato su prove oggettive, al di là di ogni ragionevole dubbio, queste cose non dovrebbero succedere. Ecco, però lasciami dire, la parte rilevante è quando quel colonnello dei RIS, dei carabinieri, rivela che questa cosa l'hanno fatta perché la procura gliel'ha chiesto. Cioè la cosa grave non è solo che i carabinieri si prestano, è che la procura, tant'è vero che la PM in sala, la PM in aula, è saltata per aria questa rivelazione, dicendo beh comunque non è agli atti, non è rilevante. Peccato che abbia influenzato e indirizzato l'intero complesso dei media sul presunto colpevole, no? Sì, quindi, perché invece fare i filmini tarocchi e non metterli agli atti è legittimo, esatto, bene, no? È così, no? Certo. Beh, ma quindi l'esigenza di comunicazione è quella di trovare un possibile colpevole, no? Sì, questo, comunque no. Questo è anche lo stato, no, stiamo, attenti, del giudice stiamo Saguto piegando anche il processo legislativo, anche la statistica, certo. La stiamo piegando a esigenze di comunicazione. Cioè se l'Istat mi prende una serie storica e me la campiona così a cavolo perché deve fare esigenze di comunicazione, io perdo il rispetto completamente per l'istituzione della Repubblica. Cioè, lo stai dicendo come un esempio? No, ma è un'ipotesi. Quando vi ricordo che quest'estate abbiamo corretto retrospettivamente le serie storiche dell'anno precedente, infatti sul mercato. Credo che me la ricordate, no, perché era no, un riferimento tanto cattivello, ma cose avvenute appunto con questo governo, non proprio. È un governo all'ordo, come dice sempre un mio amico che sta tutto qui di fianco, un governo che ama il lordo, è un governo veramente che ama, come dire, ama lardellare, se posso dire, il dato in modo tale che venga confezionato. La camera del lordo praticamente. La camera del... Okay. Allora andiamo, torniamo tra un minuto con A che punto è la crisi. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a cuore, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui tornati, 10:21, 24 secondi, lettera compagnia dei Conti da Belva. Oggi è Sant'Ernesto, Sant'Ernesto che io declino sempre nella commedia meravigliosa di Oscar Wilde in Portsmouth, Being Ernest, che è questo sottile gioco di parole tra Ernesto e Onesto che in italiano non si coglie poco, forse anche per questo che poi noi abbiamo i magistrati come Saguto a Palermo, i prefetti come Cannizzaro a Palermo che siamo costretti a rimuovere perché sono in parole povere dei ladroni come quelli che dovrebbero combattere, scusatemi, ma c'è anche questo all'interno dello Stato italiano. Allora, parta la sigla della che punto è la crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Questa sigla noi la teniamo. La teniamo, sì, anche se la il presidente teniamo. Squinzi non vuole, dice siamo usciti dal tunnel. Siamo usciti dal tunnel. Vabbè, siamo usciti dal tunnel, però noi dobbiamo ricordare che non tutto è ciò che appare, non tutto è ciò che sembra. Da cosa vuoi partire, Mario, questa settimana? Ma di che cosa vogliamo parlare? Non lo so, forse dei commenti. Delle audizioni, sì. No, di tutti gli odiati tecnocrati in audizione parlamentare sulla legge di stabilità. Diciamo che non sono stati giudizi. Diamo un voto. Io tra tutte ho preferito quella della Corte dei Conti. Ma sì, la Corte dei Conti effettivamente ha, diciamo, continua a reiterare questo concetto, no? Per cui le cose hanno qualche criticità di fondo. Però tra tutti, anche la Banca d'Italia non è stata tenerissima questo giro. Io sono un po' deluso, però sentiamo perché secondo te... Ma no, so che tu sei deluso, però voglio dire, quando si dice, escludendo l'intervento relativo alle clausole di salvaguardia, il calo delle tasse è marginale, è pari a 0,1 punti, e questa era l'audizione di Luigi Signorini, direttore generale di Banca Italia... Beh, non è particolarmente, cioè il più grande taglio di tasse dopo il Big Bang. E poi ne ha detta un'altra signorina, ha detto l'abolizione della tassazione sulla proprietà immobiliare dal punto di vista macroeconomico sulla base dell'evidenza empirica finora disponibile potrebbe avere effetti circoscritti alle famiglie soggette a vincoli di liquidità, cioè a quelli che praticamente non hanno i soldi, non hanno i soldi e probabilmente hanno pure il mutuo sulla prima casa. Infatti questo era una proposta, un paper che girava tempo addietro e che il governo non ha ritenuto di dare seguito. E però, poi... però, come dire, dalla Banca d'Italia ti aspetti un ragionamento di fondo sull'azzardo assoluto, mentre con ogni probabilità, appunto, la Fed rialza i tassi di fronte al dato anche dell'occupazione che continua a scendere negli Stati Uniti di ieri, ti aspetti un ragionamento complessivo sul fatto, attenti, perché voi non state approfittando forse bene della finestra di possibilità che vi regala Mariuccio Draghi, che continua a richiamare ogni settimana, sì, dicendo dovete approfittarne perché le cose cambieranno. Perché l'azzardo di lasciare aperto 2 punti di PIL e più di clausole di salvaguardia fiscale, su cui quello è l'intero pilastro su cui sta il conto, l'idea che poi scende il debito e c'è un saldo primario che va al 4% del PIL, questo è il nocciolo del fondamento di questa legge di stabilità, quello che tu chiami rollover, cioè spostare avanti, sì, nel, sì, tempo. Questo Banca Italia ha scelto di non farlo, cioè la scelta di questo governatore è di essere completamente schierato, d'accordo schierato con questa impostazione. E tra l'altro dicendo che è una manovra prociclica, quindi sostanzialmente che invece che appunto cogliere l'opportunità di una espansione esogena per mettere sotto i conti, sotto controllo i conti, sta facendo l'ennesimo errore. Cioè l'errore, fatemi dire, fatto paradossalmente 4 anni fa, quando abbiamo fatto una manovra assolutamente ad austerità prociclica, la rifacciamo, esatto, adesso, no? È più facile fare manovre prociclica di espansione. Ma è lo stesso tipo di errore. Sì, è un errore, sì, diciamo, non è detto che la gente capisca quello che stiamo dicendo. Però traduciamo, esatto, la manovra prociclica in espansione è elettorale. Esattamente. Cioè questo che vuol dire che... espandere la spesa pubblica in un momento in cui l'economia da sola forse ce la fa per condizioni esterne. Dico bene, quindi sì, lo Stato, sì, che chiede di poter spendere di più quando già il corpaccio pesante dell'economia italiana si sta muovendo. Tra l'altro l'ultimo bollettino mensile della Banca Centrale Europea richiama, diciamo, l'esigenza di sapere esattamente che cosa diavolo è una riforma strutturale e a quale titolo consenta di avere flessibilità di bilancio, perché in realtà Nicola Porto stanno tirando le orecchie da me alla Commissione Europea dicendo state consentendo a tutti di fare un po' quello che vogliono, soprattutto ai paesi che sono ancora in procedura di deficit eccessivo, due nomi su tutti, Francia e Spagna. E non purché se magna, ma purché se fa deficit, per cui cioè, bisogna capire che cos'è riforma strutturale. Però diciamola tutta, io non so se è a motivo, diciamo, del fatto che ci sono veti incrociati che si annullano reciprocamente, o se perché è veramente cambiata aria, è cambiato verso in Unione Europea, eccetera. Però se noi avremo dei commenti alle leggi di stabilità, alle leggi finanziarie complessivamente benevoli, cioè se, senza fare nomi, se la legge di stabilità italiana verrà accettata e ratificata così come è stata inviata a Bruxelles, questo vuol dire che è veramente cambiato tutto, sì, a Bruxelles. Cioè non dico che siamo a liberi tutti, però siamo in un contesto dove sicuramente ci sono molto maggiori margini di manovra. Poi io non capisco il silenzio dei tedeschi, evidentemente sono travolti dall'emergenza immigrazione e sono un po' meno arcigni di un tempo, però non dimentichiamo che i tedeschi hanno una diciamo elemento per rivalersi su di noi e su un eccesso di lassismo fiscale, l'unione bancaria, no? I tedeschi, già Schäuble lo ha detto più volte, ha detto guardate, cioè, di fatto i tedeschi hanno bloccato l'avanzamento dell'unione bancaria dicendo, facendo capire che finché non si arriva a trattare il problema dei titoli di Stato nazionali che sono nella pancia delle banche nazionali, l'unione bancaria non farà un passo in avanti. Per cui alla fine la catena, diciamo che qua resta, significa perché ci ascolta, non escono fuori soldi per il pilastro finanziato comunitariamente, sì, esatto, per il sostegno. Esatto, ognuno per sé è il padre eterno per tutti, il che non è il massimo della vita. Comunque, ripeto, io aspetto i pronunciamenti della Commissione UE sulla legge di stabilità italiana, mi aspetto ragionevolmente una piccola correzione in senso restrittivo simile a quella che ci fu l'anno scorso e che venne negoziata, diciamo, da Padoan in maniera molto, molto agile. Dopodiché sì, vediamo ma forse sarà compensata dal fatto che invece lo 0,2% della clausola immigrati ci danno lo 0,1 e 1,7, quindi già ho visto che poi alla fine va a finire esattamente così, cioè... Invece mi aspetto molta rigidità proprio sulle clausole bad bank e sul tema bancario, no, quella penso che resterà proprio porta chiusa. Ieri altro giallo sul recepimento della direttiva europea sul bail-in, perché in conferenza stampa viene annunciato dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio, siamo finalmente lì, abbiamo adottato tutto. Il Sole a metà giornata pubblica, c'è nel decreto anche lo schema che consente l'intervento immediato del fondo interbancario delle 4 banche di cui abbiamo parlato. Più avanti nel pomeriggio si capisce che non c'è nessun decreto ancora approvato, che mancano ancora dei pareri, e che uno dei punti probabilmente aperto è ancora esattamente quello di ma siamo matti o siamo sicuri di andare avanti su questa storia del fondo interbancario, e quindi oggi i giornali devono dire ma sì, l'esame va avanti. Esatto, anche perché Maccarone è andato in Parlamento a dire i soldi per salvare le banche io non ce li ho, ce ne ho 2 miliardi, ne servirebbero 12 e mezzo, quindi o la UE autorizza e non autorizzerà un altro, vi ho spiegato appunto l'altra volta che già nel caso di Tercas ha aperto la procedura di però infrazione. Però la singolarità è che qui diciamo a me, lo dico come giornalista, se uno fa telefonate su queste cose, l'impressione che ottiene, ed è la prima volta che è così rilevante, che la Banca d'Italia tenga molto a questa impostazione, esatto. Che il MEF invece sia discosto e col freno dice, ma se lo dicono loro, ma se lo dicono loro, ecco, cioè... C'è una situazione un po' singolare. Sì, però Banca d'Italia in questa situazione non è proprio scevra da conflitti di interessi. Quindi capito. Dovrebbe fare un passo indietro e aspettare che il processo legislativo faccia il suo corso, soprattutto ispirato dalle norme europee, perché quello è il punto di partenza. Ma non è che l'Europa si stanno muovendo così dal punto di vista delle leggi di stabilità per questioni elettorali, visto gli ultimi risultati che ci sono stati in Europa, può darsi e che sia invece stia tenendo duro sulla parte bancaria, che è una cosa tecnica che il 90% delle persone non capisce. Può essere. I sondaggi di questa settimana sono comunque molto interessanti, hai fatto benissimo a toccare questo punto che noi non tocchiamo mai, perché in Spagna in realtà si conferma, almeno lo stato attuale, che tutti quelli che speravano nel bis di Tsipras a sinistra, no? Di Podemos, sì, eccetera, non funziona. Ciudadanos è in continua ascesa rispetto al fatto che i popolari restano comunque solidamente in testa, ma probabilmente forse non con abbastanza seggi per governare da solo, però inizia nel sondaggio a vedersi una maggioranza popolare Ciudadanos che governa la Spagna. E la cosa interessante è in Francia la candidata, la nipote Le Pen, Marion, la più giovane, la bionda, è pazzescamente in testa per le regioni di Provenza, Costa Azzurra, per cui corre come presidente della regione, e quello che sta capitando invece nei sondaggi nazionali è che Sarkozy è caduta libera per quello che riguarda la destra. Quindi quello che succede in Europa mostra, secondo me, che l'onda lunga Ungheria, Polonia, eccetera, eccetera, non è per niente esaurita. Cioè l'Europa che ha paura si butta molto più a destra di quanto non fosse. Non è vero che la risposta è la sinistra dal basso, perché persino in Spagna non sta funzionando più. Dopo la Grecia credo che insomma. Ho capito, infatti in Portogallo il governo scende il passo Coelho, ha vinto le elezioni, non è in grado di formare un governo, ma gli altri di sinistra anti-euro non sono in grado nemmeno loro di formare un governo, è una situazione. Poi c'è l'incognito inglese, signori, gli inglesi sono veramente divisi, e c'è questo nazionalismo emergente, non sarà facile, perché tutta la business community è favorevole a rimanere in Europa, ma c'è tanta pancia inglese che oggi è critica. è la lotta che c'è in tutta Europa, secondo me, in questo momento, almeno da quanto così, quando parlo anche con i miei contatti, con i miei contatti a livello europeo, è proprio una situazione completamente europea, quella di avere molti cittadini di pancia che fra la questione immigrati, sulla questione dell'Europa e Merkel cattiva e tutte queste cose qua, stanno cercando qualcuno che gli dia un po' di altro problema di idee. In Spagna lunedì all'Assemblea della Catalogna si vota il documento sulla cui base si forma il governo catalano tra Junts per Mas, che ha vinto le elezioni ma non aveva la maggioranza, e il blocco di sinistra con cui faranno maggioranza indipendentista. Il documento segna le tappe dell'indipendenza. Qualcuno si aspettava dalla Corte Costituzionale spagnola il no preventivo, gliel'hanno chiesto i popolari di la Corte Costituzionale ha detto no, loro discutono. No, poi si vedrà, anche quello è un bel problema. Le elezioni in Spagna saranno elezioni sul sì o no alla Catalogna, è per questo che diventa interessante se rivincono i popolari con Ciudadanos, perché è una prospettiva di scontro, poi non è una prospettiva di convergenza quella che si apre in Spagna. Insomma, è un bel quadro. Tra l'altro in questo momento, in questi giorni, c'è questa zuffa tra Moscovici, il commissario Moscovici, e il governo spagnolo, perché Moscovici continua ad alzare il livello di deficit PIL spagnolo. Adesso l'ultima notizia è che ha incorporato un debito della Catalogna di un'altra regione, di un'altra comunità spagnola, e quindi la Spagna rischia la procedura, l'aggravamento della procedura di infrazione. E a questo punto no, però praticamente sembra che sia un fatto personale tra Moscovici e il governo spagnolo, e addirittura gira voce che il governo spagnolo sia protetto dalla destra europea, segnatamente dai tedeschi, che avrebbero tentato di impedire a Moscovici di andare in conferenza stampa e di limitarsi ad una press release per discutere di questo problema spagnolo. Quindi a giorni la Spagna, cosa abbastanza bizzarra, cioè il paese europeo dell'eurozona con la crescita più vibrante, potrebbe effettivamente tornare sul banco degli imputati per i conti pubblici. Quindi c'è veramente un grosso livello di politicizzazione, ma anche per schieramenti nazionali e di colore. Perché la preoccupazione dei tedeschi, se gli facciamo questo a Rajoy adesso, diamo una mano da una parte a sinistra e dall'altra ai catalani. Quindi... Esatto. Però vogliamo dire che oggi è il giorno in cui il centrodestra fa il suo rassemblement a Bologna e c'è il Silvio di nuovo sul palco. A me sembra una cosa importante, no? Sì, no, cioè, e poi la domanda che faccio: ma allora rimangono, escono dall'euro, che facciamo? Cioè, avete notizie voi ragazzi sui destini del centro del ci sarà uno che non ne parla e uno che ne parla non sei, cioè, no, mica adesso... pretendi una linea sola, no? che mica la destra italiana ha una linea sola. Non dovevano riunirsi, fare questo grande riassemblamento e dare un segno di unità? Devo dire che si è messi bene, che fra destra e sinistra, con la sinistra che riparte con i fuoriusciti, che oggi sì, sì, che riparte anche lei con già con tutte le correnti e si fanno di nuovo ragazzi, quattro partiti da un micro partito, insomma. In questo momento Renzi è il meglio possibile per l'Italia, ecco perché la prognosi resta infausta. questa dobbiamo registrarla, perché un Mario Seminario che dice questa cosa qua, secondo me albo la pillo. Naturalmente quello che vale poi è pesare le due parti dell'affermazione, se vale più la prima ma per esigenze di comunicazione prendiamo solo la prima e la diffondiamo. Questo è il metodo del rischio. È il metodo del rischio, sì, esattamente. Va bene, allora noi torniamo tra un minuto e la domanda diventa: glieli leviamo i troppi soldi alla Chiesa Cattolica con tutti sti ladroni che ci sono lì, oppure no? Della belva. Eccoci tornati qua in diretta, gli allegri si fa per dire, compari dei conti della belva. Civarelle sono. Io che devo fare Sabaudo, Carlo Alberto. Carlo Alberto, dove si dice? Carlo Alberto, ti piace la menta? Come mi disse Chiamparino in trasmissione, esatto. Va bene, Mario Simino e Oscar Giannino. Allora, la domanda che vogliamo rivolgere ai nostri ospiti e ai nostri cari ascoltatori è: dopo l'ennesimo riemergere di scandali finanziari e disordine nella gestione dei conti in Vaticano, all'Aps, allo IOR, e insomma, non mi fate tornare sopra tutto quello che si legge, comprese delle dichiarazioni di eminentissimi cardinali che deludono chi davvero immagina che con quelle vesti e con quelle scelte di vita bisogna essere coerenti, no? Non credo che si deve far ricordare al Papa ogni volta che parla di povertà, non può poi vivere come un faraone, però invece capita. Ecco, in questo contesto allora la domanda che ci poniamo è: non è forse il momento giusto per cambiare il meccanismo dell'8 per 1000 e un bel po' di guarentigie che continuiamo a garantire alla Chiesa Cattolica in Italia? A, rispetto alle altre confessioni; B, rispetto alle altre scelte che i contribuenti fanno nel nostro ordinamento per le donazioni liberali. Ricordo a tutti che c'è un sistema che si chiama 5 per 1000, che è quello per il terzo settore, le onlus; ce n'è uno più recente col 2 per 1000 per i partiti per sostituire il finanziamento pubblico. I tre sistemi funzionano con criteri diversi, principi diversi, le agevolazioni sono completamente diverse. Se uno vuole donare a un partito ha un'agevolazione molto maggiore che se vuole donare a una misericordia che assiste ai malati un museo, strano, o un'università, che è una cosa pazzesca. Dopodiché invece il meccanismo dell'8 per 1000 ha tante cose pazzotiche, nel senso che si prende chi non esprime un'opinione e in realtà lo si fa pesare per chi la esprime a favore di chi ne esprime di più in proporzione solo sul totale però ridotto di chi l'ha espressa. Questo fa alzare con sicurezza ogni anno il montante, che si è moltiplicato per 5 nel giro di pochissimi anni, mentre invece ogni anno sopra il terzo settore lo Stato si riserva di dire quanti soldi dà o meno delle opzioni al terzo settore. Quindi è tutta una giungla diversa. A me veramente colpisce, perché io sarei per una misura standard di agevolazione sulla libertà di donazione del cittadino, su tutto, confessioni religiose, terzo settore, partiti per chi vuole. Quello che invece capita è che di sicuro noi abbiamo un 8 per 1000 che per l'ennesima volta la Corte dei Conti ha fustigato, dicendo: ma lo Stato nella commissione mista governo CEI, che c'è solo naturalmente per l'intesa con la Chiesa Cattolica, non con le altre confessioni, perché non solleva un po' di problemini, visto che per esempio i tre fini di legge a cui dovrebbe essere devolute le somme che si danno con l'8 per 1000, beh, dal rendiconto della CEI non sono rispettate, perché pare, per quanto generalissimo sia quel rendiconto, che lo usino anche per altro? Questa è la domanda che faccio i nostri due ospiti che vado a presentare. Abbiamo con noi Luigi Amicone, che è amico anche carissimo per me in termini personali, direttore del settimanale Tempi. Buongiorno e ben ritrovato, Luigi. Buongiorno carissimo. E Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario dall'Università di Trieste, lo sapete, uno dei nostri punti di riferimento nel pensiero tributario italiano. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Luigi, ti tocca difendere a spada tratta l'8 per 1000. Beh, era chiaro che tutto, diciamo, questo sensazionalismo sulle contraddizioni evidenti che ci sono in Vaticano, e potremmo definire uno Stato, diciamo, retto con secondo principi non propriamente di competenza, almeno quanto emerge in questi giorni. Però che tutto ciò andasse a sulla roba, no? Cioè che tutta questa operazione di pressione, di dali, eccetera, eccetera, mirasse poi alla fine a rimettere in discussione che cosa? Rimettere in discussione, io credo che l'8 per 1000 sia una cosa intelligente, che consente al cittadino di esprimere, di dare liberamente dal prodotto del proprio lavoro, dal insomma, sono tasse, no? IRPEF, di dare a ciò che ritiene, diciamo, idealmente utile e che abbia valore per la società. Che questo sia stato introdotto non da un democristiano, da un baciapile, ma da Bettino Craxi, socialista laico, che è, credo, storicamente il politico che ha fatto di più per la Chiesa Cattolica, paradossalmente. Chiesa Cattolica io intendo ovviamente non semplicemente l'istituzione e quelle persone che con poca coerenza gestiscono anche le risorse dei credenti e dei cittadini, intendo una comunità di credenti, e quindi credo che questo strumento sia un giusto strumento che permette di alleviare e sostenere tante situazioni difficili. Sappiamo che al di là di qualche cardinale ci sono tanti sacerdoti e tante comunità ecclesiali che questo 8 per 1000 lo gestiscono molto bene. Mi fido di più certamente della Chiesa, della comunità dei credenti, che dello Stato. E ciò che c'è da riformare, credo che sia sotto gli occhi di molti, il Papa lo ha presente e sarà fatto. Ma mettere in discussione questo strumento mi sembra proprio sbagliato. Però Luigi, qui l'accordo non lo facciamo con la comunità di credenti, lo facciamo con la CEI, lo facciamo con un organismo amministrativo e gestionale, e stiamo facendo il sostituto d'imposta per uno Stato irresponsabile, lo dico tecnicamente, no? Mentre da liberale direi, scusami, la tassazione esige rappresentanza, ho diritto di sapere dove finiscono i miei soldi e perché vengono impiegati. Qui stiamo mettendo in dubbio, anzi forse stiamo sostenendo i dubbi liberali classici, che i soldi non hanno rappresentanza e non hanno nemmeno trasparenza. trasparenza, e qui andiamo a difenderli. Non tirare in ballo, per favore, la comunità dei credenti, perché non c'entra niente, non vanno alla comunità dei credenti, vanno a un'organizzazione specifica che ha firmato, sottoscritto un'intesa vera e propria, no, scusa, addirittura un accordo istituzionale vero e proprio. Come facciamo a difendere questo? Ma lo difendiamo perché la CEI prima di tutto fa un resoconto annuale, esiste un resoconto annuale che si può, su cui si possono fare le pulci, critiche. No, la Corte dei Conti dice esplicitamente, esatto, per il secondo anno di seguito, da quel rendiconto così generale si capisce che le tre aree vincolate per legge di destinazione dei fondi sono aggirate. Esatto, quindi questo è il problema. Cioè, la rappresentazione di questa tassazione è del tutto insufficiente. Un politico o qualsiasi persona che chiede i soldi non può non rendicontare. Dopodiché lo Stato, aggiunge la Corte dei Conti, lo Stato è il primo che non solleva questo problema, perché a propria volta lo Stato della quota derivante dall'8 per mille, attraverso le scelte dei contribuenti, a propria volta ne volge la parte preponderante in termini annuali a fini diversi da quelli di legge, esatto, perché li mette a spesa corrente, quindi è la somma di due ladri, questo bel accordo. Quindi è giusto non fidarsi dello Stato, perché lo Stato con il suo quota dell'8 per mille la distrae rispetto, ma soprattutto io vorrei dire una cosa e chiederei proprio anche l'opinione, diciamo, del direttore Micone. Ma io sono abbastanza d'accordo col principio della destinazione delle proprie tasse e col principio di sussidiarietà e quant'altro, ma che dire dell'inoptato che viene attribuito automaticamente, anche chi non esprime una preferenza viene attribuito automaticamente a pro quota. Questo è un principio anche, è un principio di buon senso e anche democratico, direi, perché quando votiamo, anche se i seggi vengono ripartiti, ma come fai? D'accordo, però. Allora, il fatto che ci siano dei problemi dell'opacità, eccetera, eccetera, a parte che anche la Corte dei Conti bisognerebbe valutare non sempre il suo operato è lineare. Allora, scusate. Per dieci anni ci sono state regioni che non avevano neanche. Ma figurati! Ma non è la colpa di altri, di notte tutte le vacche sono nere. Allora, la Corte dei Conti anche lei ha un peso politico, interviene quando l'opportunità politica ha interesse a intervenire. Comunque, il fatto che ci siano opacità e problemi sia all'interno della gestione della CEI che dello Stato, come avete ricordato, non è che tutto ciò implica che allora bisogna evitare, tagliare, far saltare questo strumento. Ridiscutiamo, perché non dobbiamo ridiscutere? No, ma lui dice ridiscutere, sì. Sentiamo Stefanato tra 30 secondi, perché prima abbiamo le informazioni stradali. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Allora, siamo tornati in diretta e qui naturalmente tra noi c'era il confronto. Ma tu a chi lo dai l'8 per mille nel tuo... Renato, tu a chi lo dai l'8 per mille? Variabile. Allora, variabile nel senso che ultimamente l'ho dato in qualche caso alla Chiesa Cattolica. No, qui invece c'è il reparto Valdese. I Valdesi sono l'esempio, cioè danno il resoconto pubblico di ogni singolo centesimo. Assolutamente sì. Quindi noi andiamo a gonfiare la rappresentanza della Chiesa Valdese in base allo stesso principio per cui si viene gonfiato il gettito alla Chiesa Cattolica. Perché questo meccanismo dobbiamo fare? Sentiamo Dario, dai. Allora, professor Stevanato, lei che dice? Dico che è per me un meccanismo veramente poco trasparente, che gioca su un equivoco, cioè abbiamo... Da un lato l'idea, no, che si tratti di un'imposta volontaria, che già di per sé è un vero e proprio ossimoro, cioè quindi abbiamo una sorta di equivoco per cui il contribuente pensa di fare una donazione e questa donazione in realtà è obbligata. la Corte dei Conti richiama un passaggio delle dichiarazioni fatte da Craxi nell'85 che mi sembrano significative, dove Craxi diceva viene agevolata la libera contribuzione dei cittadini. Ci leggono nel pensiero, Dario, noi nel ci alziamo la mattina e pensiamo che tassa voglio donare stamattina. Esatto, di libera contribuzione mi sembra veramente difficile da sostenere. Qui la domanda che poi ci dovremmo porre è di chi sono questi soldi, cioè i soldi dell'8 per mille, che sono una sorta di sovraimposta incistata dentro l'IRPEF con una destinazione finale, con una sorta di sovraimposta di scopo direi occulta o comunque poco trasparente. Di chi sono i soldi? Perché sono dello Stato che li devolve come crede o sono dei cittadini? Adesso, a parte, no, che verrebbe bene qui citare Margaret Thatcher, secondo cui non esistono i soldi dello Stato ma esistono solo i soldi dei contribuenti, mi sembra che se fossero soldi dei cittadini allora la donazione dovrebbe essere libera, quindi dovrebbe essere possibile in caso di mancata opzione non sostenere alcun esborso. Invece come avete un attimo fa spiegato, il meccanismo delle mancate opzioni, che si riversa proporzionalmente sulle confessioni religiose o sullo Stato stesso, che hanno avuto invece percentualmente opzioni da parte della parte minoritaria, tra l'altro, gli italiani, che assolutamente minoritaria, esprime, fa pensare che si tratti di soldi pubblici. Si tratta di soldi pubblici, ma se si tratta di soldi pubblici allora direi che siamo abbastanza vicini a un meccanismo che ricordava un attimo fa Carlo Alberto, cioè un meccanismo di stampo coloniale, cioè questo è un atto di sudditanza nei fatti. Oh, bravo. Ma perché adoriamo Dario Stevanato? Perché dice queste cose. Bravo Dario, diglielo. Non esiste che uno Stato sovrano raccolga tasse per un altro e neanche chieda conto. Ma neanche per l'Ocse, voglio dire. Qui è giustamente dovremmo pensare di uscire dall'Ocse, perché se l'Ocse usa i nostri soldi. Questo è una battuta troppo sopraffina che si riferisce ad alcune polemiche del capita in pochi, Vabbè. L'euro è ancora di moda, l'euro, però l'Ocse non è più di moda, scusate. Dai, non dirazzare. Torniamo alla Chiesa Cattolica. Dario, spiega perché è il momento veramente di rivedere questo meccanismo. La Corte dei Conti nelle sue relazioni, quella di quest'anno, ma ancora più bella quella dell'anno precedente, del 2014, molto estesa, molto puntuale, fa anche un esame comparato di che cosa fanno gli altri stati. Allora, molti non danno alcunché alla Chiesa e quindi la Chiesa si arrangia, o le altre confessioni religiose, ma c'è un'interessante esperienza tedesca dove lì c'è un'imposta ecclesiastica in cui lo Stato fa da esattore, però a differenza di quella dell'8 per mille italiano, è un'imposta pagata solo dai fedeli, quindi ogni cittadino tedesco può scegliere, può fare l'opting out, esattamente così, scegliere se fa parte o meno della comunità dei credenti, dei fedeli, e quindi pagare o no l'imposta. A questo punto c'è quell'elemento di volontarietà che da noi manca. Certo. E io sono anche dell'idea che a quel punto, proprio per evitare l'accusa di Luigi e di tanti, no, che fanno parte in maniera impegnata nella vita di un'esperienza di fede, sia pure declinata in chiave professionale giornalistica, per evitare che loro ci dicano che a quel punto mettiamo la lancia in resta e facciamo una campagna anticattolica, dico approfittiamo di questo per fare un intervento liberale, ma che mette sullo stesso piano tutte le libere scelte, ma libere davvero, dei contribuenti, sia quelle a confessioni religiose, sia quelle al terzo settore, sia quelle ai partiti politici, un unico tipo di agevolazione fiscale per chi fa le sue libere scelte. E a quel punto io sono anche per un'agevolazione molto forte, perché credo nella sussidiarietà, nel welfare dal basso, nell'alimentare dal basso con risorse crescenti ciò che non deve o non può fare lo Stato. Unifichiamo tutti questi regimi, ma sul principio della libertà e della trasparenza. Basta regime concordatario, che è un vecchio cascame del Medioevo, ma santo Dio benedetto. Guarda Luigi, figurati se io non levo rispetto politico a Bettino Craxi, ma quella roba lì fu fatta come sempre in Italia con l'idea che poi i cattolici ti votano, che è la stessa ragione per cui abbiamo ancora adesso la politica che ragiona così, e invece i cattolici sono liberi di votare, esatto, chi vogliono, che è la forma suprema di mancanza di rispetto, perché vuol dire che te li compri i voti di gente civile. Torniamo dopo il giornale radio. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, per cui uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Della belva. Eccoci tornati in diretta 11:06 primi 35 secondi col compare dei Conti la Belva. Renato Cifarelli. Caro Alberto Carnevale Maffè. Mario Seminerio. Niente Renato, l'hai fatta questa volta all'italiana. Non ti allora, piace più? No, va benissimo. Però sai, se abituiamo gli ascoltatori poi a autoironizzare, bisogna continuare su questa chiave. Ah, bene. Allora, abbiamo sentito il professor Dario Stevanato favorevole un po' alla nostra impostazione. Rivediamolo sotto per mille. Non funziona. Luigi Amicone, direttore della settimana dei tempi, dire no, invece bisogna difenderlo perché è una cosa buona. E sentiamo un po' come la pensate voi su questo argomento e poi apriamo subito il capitolo della proposta Boeri, cioè siete favorevoli a rifare il ricalcolo oltre una certa soglia delle pensioni retributive eccessive rispetto ai contributi veramente versati, ma utilizzare poi queste risorse accomunandoci anche i vitalizi dei politici nazionali e regionali, intervenendo anche sulle scandalose pensioni regalate ai sindacalisti e così via, ma utilizzando poi queste risorse per prepensionare gli anziani e per dare un sostegno al reddito agli anziani e ai giovani. Ecco, questa in sintesi estrema la proposta Boeri. Sentiamo Roberto da Roma, credo sull'8 per mille come la pensa. Roberto, lo difendi l'8 per mille? Buongiorno, ma io trovo che sia molto importante quello che state facendo oggi, perché c'è da scarsa conoscenza dell'argomento e molte confusioni. L'8 per mille secondo me va rivisto completamente, soprattutto per i meccanismi di attribuzione. Ma la cosa di cui io direi sono molto scandalizzato del fatto che intorno, non so, un paio di mesi prima del periodo in cui bisogna scegliere a chi dare l'8 per mille, la CEI degli splendidi spot in televisione. Aspetta, abbiamo un pezzo esattamente di uno di quegli spot, dovreste averlo in cartella, sto guardando la rete, no, c'è? Ma andiamolo. All'inizio pensavo che l'8 per mille fosse solo una legge frattante, freddi e sconosciuti numeri, all'inizio, poi ho iniziato a chiedere e a capire e a scoprire. A chiedere dove andassero a finire i fondi dell'8 per mille. A capire cosa significassero per la vita di tanti. E di quanto fosse capace quella firma. Ecco, lo abbiamo mandato in onda. Grazie Roberto per averlo ricordato, oltretutto, perché lo abbiamo tirato fuori, che questo spot, che è tutto volto a seducentemente cogliere la fiducia di chi lo ascolta dicendo perché noi rendicontiamo tutto, è esattamente mendace, perché il rendiconto generalissimo della CEI non è fatto secondo i criteri previsti dalla legge del 1985 sull'8 per mille. E aggira, dice la Corte dei Conti, le tre esclusive finalità per legge a cui andrebbero devoluti i soldi dell'8 per mille. Tra l'altro, appunto, finanzia anche queste campagne che, per esempio, lo Stato non fa a proprio favore, come avete sentito, campagne di raccolta. Allora, Roberto, ti ho interrotto, ma proprio perché ci hai dato il là giornalistico di questo. Prego. Sì, no, ma ho finito. Lei è stata molto efficace, perché voglio dire, io ho fatto così dei bei sondaggi fra i miei amici, nessuno assolutamente sa qual è il meccanismo e mi sembra assolutamente squilibrato il fatto che la CEI faccia questi spot di altissima qualità e lo Stato non ne faccia nessuno. Voglio dire, io credo che conoscere per deliberare vale sempre, no? Certo. E quindi tutti dovrebbero sapere come funziona tutto quanto. Poi ci sono le altre cose che avete detto, infatti dovrei rivedere un po' come vengono distribuite, soprattutto il non optato mi sembra una truffa. Infatti altre confessioni religiose sostengono esplicitamente che si tratti di un meccanismo incostituzionale e io sono d'accordo con loro a dire la verità. Anch'io. Per quel che va. Però ci dicono che siamo laicisti a ragionare così, Carlo Alberto. No, invece siamo, come dire, tutori dello Stato di diritto. Ci mancherebbe altro, quindi rispettiamo, anzi, come dire, favoriamo la separazione rigorosa e basata sulla libera scelta tra Stato e Chiesa. Mi sembra un principio assolutamente cavuriano, se posso dire. E anche quindi è pericoloso. Quindi pericoloso. No, ma basta prendere ad esempio, appunto, ripeto, abbiamo citato nel caso tedesco, non capisco perché i tedeschi, che sono pure un popolo molto religioso, possa convivere con un modello deliberatamente basato sulla scelta, e invece noi dobbiamo fare questa inciuccio. C'è stato un certo signore che si chiama Martin Lutero, e quindi questo spiega tante cose delle differenze. Ma noi da liberisti siamo per la scelta, il problema è che sia una scelta consapevole e rispettata. No, perché io non posso accettare che chi non sceglie contribuisca a uno spaventoso meccanismo a leva per cui i fondi dell'8 per 1000 si moltiplicano del 500% tant'è in 5 anni. È pazzesco, ragazzi. Tant'è vero che abbiamo detto che ognuno di noi fa una scelta sull'8 per 1000, quindi non è che noi diciamo non ci vuole, almeno io, non è che non ci vuole la scelta, ma la scelta deve essere consapevole. Consapevole e scelta. E ripeto, non aggirata da strani effetti moltiplicatori. Quasi come la pensione, dovrebbe essere consapevole, trasparente. Allora, e ragazzi, deliberata. Facciamo subito un rapido giro tra noi per spiegare come la pensate sulla proposta Boeri. Io, la mia idea, per chi la vuole più estesa, oggi c'è il fondo su Messaggero Mattino e così. Io sono favorevole a tutto quello che c'è da aspettarsi da Tito Boeri, cioè gli interventi, sopra la soglia di contribuzione, però dico no a 7 volte il mio LIMS, mi sembra basso per identificare le pensioni d'oro, sopra i 5.000 euro, così lo dicevo pubblicamente 2 anni fa in campagna elettorale, quindi non ho cambiato idea, sì all'unificazione dei regimi, sì a intervenire sui vitalizi dei politici uniformandoli alle pensioni e quindi rendendo possibile intervenire, sì a colpire quindi anche i regali dei retributivi ai sindacati, sì a forme di semplificazione dell'assistenza che a oggi rispetto alla povertà degli indicatori di reddito disperde i suoi effetti nella parte alta della piramide dei redditi italiani, come spiega in un punto della sua proposta, però fatto salvo che io interverrei solo dei 5 euro in più, la mia opinione è no per prepensionare e no per il sostegno agli over 55, perché io penso che il problema sia i giovani. Mario, tu come la pensi? Ho letto che il ministro Poletti ha detto che non gli sta bene, tra le altre cose, la proposta di Boeri, perché Poletti dice: non voglio arrendermi all'idea che un 55enne non riesce a ricollocarsi. Io in astratto sarei anche d'accordo, il problema è che bisogna essere anche un po' realisti, cioè secondo me esistono persone di 55, 58 eccetera che sono distanti dalla pensione, che semplicemente non trovano lavoro e non sono impiegabili, non sono reimpiegabili, non sono reinseribili. La proposta di Boeri è una tecnica di riduzione del danno, se vogliamo usare questo termine, perché queste persone finirebbero inevitabilmente nella lista degli esodati. Beh, questa lista degli esodati però sta accogliendo oramai indifferentemente tutti coloro che sopra i 55 anni non hanno un lavoro. Io sono contrario. Quello vuole neutralizzare. Cioè, Jobs Act dice che per questi c'è l'ASDI, certo, non l'ASPI, certo. L'ASDI e il contratto di ricollocazione. Sì, e sì, allora c'è l'ASDI, sì sì, no, sicuramente, sicuramente. Poi diciamo questo, probabilmente il problema è che si va a trattare una fascia d'età che è abbastanza problematica, non si pensa a quelle precedenti. Io complessivamente non sono in disaccordo con la proposta di Boeri, è una proposta che è rimasta coerente a se stessa, sì, sì, nel corso degli anni, perché stavo notando proprio che l'espressione non per cassa ma per equità era esattamente il titolo di quel post sulla voce.info di 2 anni fa, di cui era coautore Tommaso Nannicini, per cui che adesso è, diciamo, il regista dei consiglieri economici di Palazzo Chigi, almeno a questo giro, perché quelli cambiano. Quindi, con grande tutto sommato, non dici, sono in disaccordo, coerente e sostanzialmente d'accordo, sì, anche per il sostegno, sì, agli anziani, sì. Attenti che fermo restando che hai ragione sull'ASDI. Hai ragione sull'ASDI, cioè, in quanto ultima istanza per chi ha esaurito la NASPI e si trova in condizioni di disagio economico. Però questo facciamo quello è ineccepibile, anche perché se iniziamo a intervenire, ripeto, a favore degli anziani con l'inizio di un reddito di sostegno, poi lo estenderemo anche a tutti gli altri, magari senza riordinare e ripersemplificare tutte le altre forme di assistenza previste. Io non lo so, come la pensi, Roberto? Devo fare una nota sul metodo, perché nel merito sono d'accordo con voi, ma mi interessa più il metodo. Può un presidente dell'INPS arrivare con una proposta di questo genere qua? Posso dire, dal mio punto di vista, non solo sì, ma deve, perché per una volta ho visto una proposta basata su modelli di simulazione, stime finanziarie, note tecniche, fatta bene, discutibile, perché basata su dei numeri. Stai usando un criterio sostanziale, non formale. Però cioè, di fatto ti piace come è fatta, tu hai posto posto un problema. Il presidente dell'INPS, nel nostro ordinamento, è titolare di un potere di proposta legislativa, può esplicitamente criticare le misure del governo, eccetera, eccetera. Il più della politica dice no. Io ho difeso il suo diritto sul Messaggero dicendo però è perché correnti ci inventiamo cose nuove. Però se posso dire, qui c'è un tema di che cosa deve fare la pubblica amministrazione italiana, che presiede una fonte di dati straordinaria che non la sa usare. E la politica appunto legifera sulla base del cazzeggio dell'ultimo minuto. Mentre qua è importantissimo che la funzione pubblica produca dati e produca proposte, modelli. Pensa solo alla campagna di trasparenza fatta sulle gestioni spreparate, numeri alla mano, che prima l'INPS non aveva mai fatto. Fantastico, io devo dire tutto il supporto metodologico a Tito, insomma, che oltre ad essere un'amica è una persona serissima e rigorosa e coerente, ma secondo me è legittimo, anzi è doveroso che l'INPS tiri fuori i suoi modelli, tiri fuori i suoi dati e li metta sul tavolo, inchiodando la politica a scelte che devono essere misurabili e confrontabili. Quindi questo guadagno di metodo, caro Oscar, scusami, per me va difeso. Insomma, al di là Tito Boeri vi sta portando a favorire i prepensionati come Damiano, da vecchio politico di sinistra, invece non vi cominciava questo, quello a fare. Magari no, ecco. Attenti però che il fine è lo stesso. Ecco, sul merito ti devo dire invece non sono d'accordo, ma sul metodo invece sì. Sul merito adesso vi lascio intervenire, che già commento sul metodo, qual è importante, è un guadagno proprio culturale. Il fatto che Poletti si arrabbi, secondo me è sbagliato. Invece Poletti non deve essere grato all'Inter. Sono d'accordo con te. Ecco. Premesso che sono in conflitto di interesse in quanto 55enne, quindi sei sulla soglia e quindi sono entrato fra i supportabili. Allora, io sono d'accordo sulla proposta. No, però tu in quanto imprenditore non ricadi né nella parte degli esodandi, né nella parte del sostegno al reddito dei 500 euro. Quindi esodato. Diciamo che con le mie tasse ci pago un bel po' degli eventuali 55 anni. No, allora, io su tutte queste cose qua di supporto al reddito sono abbastanza d'accordo, nel senso che comunque è vero che c'è un problema di disoccupazione giovanile, però è anche vero che c'è un fortissimo problema degli over 45, over 50, difficilmente ricollocabili. Però sì, anche se con Jobs Act, guardate, la partecipazione al mercato del lavoro sta crescendo solo sugli over 50 e non sui giovani, perché sono le skills formate. È il finanziamento anagrafico, ho capito, cassa integrazione che si assorbe, certo, quello che volete. Le aziende cacciavano i cinquantenni, sono d'accordo, però costavano molto, poi si sono accorti che senza i cinquantenni non andavano avanti e quindi sono d'accordo, ragazzi, però il problema fondamentale, ti faccio finire, scusami, hai ragione. Allora, però l'unica cosa che io dico su tutte queste riforme di sostegno al reddito è che dovrebbero lavorare, cioè dovrebbero fare dei lavori per il comune, per lo Stato, per una qualsiasi altra cosa, per cui a fronte di 500 euro tu hai un minimo di impegno per lo Stato, perché vieni pagato con dei soldi delle tasse, e i soldi delle tasse qualcosa devono produrre e non una persona che sta a casa a far nulla. Secondo me, tra l'altro, sarebbe anche di aiuto alle persone che non si sentono di solo peso, ma utili. Io continuo a dire, la questione intergenerazionale, che è quella da introdurre metodologicamente, come dice Carlo Alberto, nell'esame di ogni intervento sulla previdenza, e che è quella gigantescamente aperta dal divario di rendimenti e di contributi dal sistema retributivo precedente a quello solo contributivo a regime, quando si arriverà ai giovani troppo tardi mercato del lavoro con bassissima continuità contributiva, eccetera eccetera, e a svantaggio dei giovani. Allora, io sono perché se si interviene sull'eccesso di regalo retributivo, e io sono favorevole da sempre, tra l'altro chi dice che è incostituzionale, ricordi, caro ascoltatore, che l'incostituzionalità può venire da interventi eccessivi rispetto al tetto e fino a questo momento se strutturale e permanente, perché la Corte ha detto sì anche a prelievi molto pesanti sulle pensioni elevate. C'è sempre stato questo equivoco nella giurisprudenza costituzionale di chiamarli contributi di solidarietà, come a dire che possono essere poi reversibili. Però l'incostituzionalità non è affatto quella che vi racconto del diritto quesito che non si tocca niente. La Corte Costituzionale ha autorizzato in molte sentenze prelievi di questo tipo sulle pensioni elevate, però secondo me bisognerebbe farlo per una questione di giustizia equitativa tra retributivo e contributivo, ma la vera questione della giustizia intergenerazionale è quella a favore dei giovani. Allora, bravo, su questo su questo Tito poi però pensa ai vecchi, non pensa ai giovani. Allora, ci abbiamo le strade e poi abbiamo un rappresentante del del governo, che ha detto fin dall'inizio questa proposta, a differenza di altri membri del governo che hanno detto no, Poeri, per favore, fai il tuo presidente dell'INPS e non ci rompere le scatole. Invece questo componente del governo, che sentiremo tra un minuto, ha non solo detto no, perché? Perché è una bella proposta, parliamone, anzi a me l'impianto non dispiace. Sì, tra ma un minuto, è una tra quinta un minuto, colonna liberale tra un minuto, governo, tra diciamo. Un minuto, tra un minuto, lasciamo un po' di suspense su chi è il nostro ospite. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati in diretta, stiamo parlando, abbiamo tentato di spiegarvi in che consiste la proposta del presidente dell'INPS, Tito Boeri, reintervenire sulle pensioni, sulla parte più elevata degli assegni previdenziali che ha una valutazione troppo eccessiva ai fini di trattamento dei contributi versati col sistema retributivo, reperire di lì risorse e attraverso questi interventi finanziare un sostegno al reddito degli over 55 e prepensionare. In buona sintesi, allora abbiamo con noi il Enrico Zanetti, al quale spesso ricorriamo perché diciamo ci troviamo abbastanza nelle sue opinioni, nelle sue iniziative, sottosegretario all'economia e segretario di Scelta Civica. Buongiorno, grazie di essere con noi e ci dica perché lei ha dato un apprezzamento, in cosa consiste secondo lei il merito della proposta Boeri, su cosa eventualmente non è d'accordo. Sì, ecco, distinguiamo innanzitutto merito e metodo. Partiamo dal merito. Io la proposta di Boeri, più che sottoscriverle, le ho già sottoscritte, nel senso che già mesi fa Scelta Civica a mia prima firma, quindi con un impegno anche forte dal punto di vista politico per il nostro movimento, ha già presentato un disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi, dove l'abolizione si intende semplicemente riportare la contribuzione degli anni di attività, esatto, politica nell'ambito del più ampio percorso della propria attività lavorativa di vita, come dovrebbe essere logico. Un disegno di legge per andare a tassare non tanto le pensioni d'oro, perché se una pensione è alta ma i contributi è del tutto giusto che sia alta, ma a tassare il differenziale, esatto, tra la pensione diciamo retributiva e quindi la parte non coperta dai contributi e quella che viceversa sulla base dei contributi versati si avrebbe diritto a percepire. E sempre noi tra l'altro abbiamo sollevato con l'interrogazione parlamentare dell'onorevole Sottanelli la questione delle pensioni sindacalisti, quindi più che sottoscriverle, ripeto, noi le abbiamo già sottoscritte, sono proposte assolutamente corrette da un punto di vista proprio di ripristino dell'equità intergenerazionale e dell'equità in generale. Poi però sul metodo io vorrei sottolineare che nonostante le proposte di Boeri mi piacciono molto, sono proposte che Boeri come presidente dell'INPS aveva già avanzato tempo fa al governo e sostanzialmente, pur con il nostro dispiacere, ma altre componenti della nostra maggioranza le avevano rispedite al mittente. Farle riuscire oggi sotto finanziaria, facendo una sorta di controfinanziaria, non è qualcosa che dovrebbe fare il presidente dell'INPS. Lo dico con rammarico perché, ripeto, il merito lo condivido totalmente, ma solo pochi giorni fa c'è stata un'analoga polemica nella quale io mi sono buttato a pesce perché ci credo convintamente, sul fronte delle esternazioni di natura sostanzialmente quasi contro al governo dell'Agenzia delle Entrate. Noi non possiamo andare avanti con un paese dove dopo 15 anni in cui nel tempo spesso i direttori dell'Agenzia delle Entrate si sentivano ministri delle finanze, introduciamo anche l'elemento di un presidente dell'INPS che si sente ministro del lavoro, e lo dico anche se francamente sarei il primo a vederlo con piacere. No, ma io devo dire che le do atto della coerenza, perché altrimenti le si potrebbe dire ma come, Zanetti interviene dicendo non sono i tecnici che fanno la politica, i tecnici perfettamente, noi li rispettiamo tantissimo, ne abbiamo tantissimo bisogno alla lotta all'evasione, ma non possono fare la politica fiscale, e poi può dire però la cosa opposta dall'INPS. Le proposte, i tecnici cioè devono farle, cioè, ad esempio faccio un esempio sulla norma dei 3.000 euro sul contante, che in questo momento è in discussione naturalmente nel disegno di legge di stabilità, abbiamo davanti due mesi di discorsi in Parlamento, su quello che è una norma in itinere. Se l'Agenzia delle Entrate ci ponesse dei dati che spiegano in modo argomentato, non sto a parlare di segnali perché la lotta all'evasione non si fa con i segnali, ma ci dicessero in modo argomentato no, attenzione, guardate, invece questa norma è davvero servita per la lotta all'evasione, io non solo non la considererei un'invasione di campo, ma è esattamente il lavoro dei tecnici. Ma quando le norme ormai sono approvate o quando le proposte che i tecnici hanno fatto sono già state rifiutate dal governo, non è che nei momenti lei dice, in cui non, si entra non è che a quel punto si pubblicano i disegni di legge sui siti. No, no, ho capito. Lo potete fare voi che siete, siete degli opinionisti liberi, certo. Ma chi a quel punto è servitore dello Stato, viva Dio, faccia il servitore dello Stato. Ripeto, nel caso di Boeri, lo dico con rammarico, ma se in questo paese continuiamo con la confusione di ruoli, quando domani non ci sarà Boeri, è un problema di fondo, certo. Maledetto, ritorniamo a essere chiari. È un problema di fondo, quindi capisco. Io continuo ad avere il mio punto. In ogni caso, per quanto favorevole l'impianto dell'intervento, non mi convince finalizzarlo ai più anziani invece che ai giovani. Ma visto che abbiamo, io su quella parte, scusi Giannina, sì, su quella parte non ho toccato il punto. Io ho parlato delle tre cose su cui sono ultra d'accordo. Sulla parte degli over 55, allora qualcosina deve essere pensato. Intanto 55 rispetto a un'età pensionabile oggi 66 mi sembra però troppo basso, bisognerebbe fare un percorso di avvicinamento dai 60 in su. Dopodiché è chiaro che con un range più ristretto, un piano di accompagnamento e di aiuti per questa fascia di età è corretta, anche perché l'età pensionabile è oggi molto alta, e spiace tenerla così alta, è dovuta non alla crudeltà, come dire, di chi governa e di chi governava, ma è dovuta a una curva demografica complessa, tale e alle aspettative di vita, eccetera. Una cosa che io vorrei che fosse chiaro, toccare guardando la curva dei sondaggi elettorali ogni anno, ma perfetto, ha ragione. Ma si mette in difficoltà non solo i giovani, questo deve essere chiaro, che tanto a loro nella prospettiva non gli frega di abbassare di qualche anno oggi, ma anche chi è già in pensione. Esattamente. Perché chi è già in pensione, da un abbassamento dell'età pensionabile, che rischia tra 5-6 anni di dover ritornare a mettere mano a tutto, non ha nulla da guadagnare. Esattamente, bravo. Gli unici che legittimamente, lo ribadisco, hanno delle apprensioni sono proprio la fascia a ridosso dell'età pensionabile. Tanto non farei 55, ma farei 60. Ed ecco che questo problema è giusto risolverlo con un intervento mirato di politica assistenziale per chi non ha nemmeno il lavoro. Mentre qualunque scelta volta ad abbassare l'età pensionabile solo per far campagna elettorale è criminosa. Meno male, allora su questo sono contento che la pensi così, a dire la verità. Io però ne approfitto di avere il suo sottotono a me, perché le devo fare una domanda. Perché io sono saltato sulla sedia nel vedere che dal 22 di ottobre, in realtà lo sapevo, ma uso questa espressione colorita per attirare l'attenzione di chi ascolta. Insomma, dal 22 di ottobre con il decreto legislativo 158 del 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore quel giorno, ci siamo inventati, per così dire, un nuovo reato tributario. Un nuovo reato tributario, stiamo parlando dei decreti attuativi della delega fiscale, e il reato tributario è quello di commercializzazione di schemi di evasione a carico naturalmente del professionista che assiste il contribuente, che può, per aggravante dei diritti tributari con cui si interveniva in questa legge delegata, arrivare a 9 anni di carcere, mentre nella delega si diceva che in nessun caso si poteva andare sopra i 6 per tutti i tipi di reati che venivano toccati poi dalla legge delegata. Quindi secondo me c'è un eccesso di delega, ma soprattutto il decreto legislativo non spiega minimamente in cosa cacchio consista questo schema di commercializzazione di schemi di evasione da parte del commercialista, e quindi saranno come sempre i giudici a stabilire di sentenza in sentenza in che cosa consiste questa bizzarria di inventarci un reato senza identificarne la fattispecie, ma come punto pistola puntata alla tempia ai commercialisti del paese, per se non avessero capito che loro in realtà sono esattori dello Stato pagati dai privati e però ma vale anche patrimonialmente per no, allora siccome è così ci spiega il sottosegretario Zanetti cosa avverrà, perché leggendo mica è chiaro. Noi siamo inondati da lettere di commercialisti che dicono, cioè, che qual è la cosa che noi dobbiamo evitare? Come potrai immaginare, ne ricevo qualcuna anch'io avendo molti contatti con quel mondo dal quale provengo come esperienza. Per quello glielo chiedo. Guardi, noi sul fronte delle sanzioni penali relative all'evasione abbiamo fatto delle scelte che sono scelte di ridimensionamento e razionalizzazione, quindi tutt'altro che una logica, come dire, giustizialista, ma molto pragmatica, andando naturalmente a tenere fermo il punto su tutto ciò che sono le frodi, cercando invece di circoscrivere altri ambiti come ad esempio la dichiarazione infedele, che peraltro molti di quelli che parlano non sanno che in tanti altri paesi europei la dichiarazione fedele non è mai penalmente rilevante. Esatto. Noi l'abbiamo mantenuta penalmente rilevante, abbiamo un po' alzato la soglia perché sinceramente negli anni passati era furor di popolo, okay, così come ad esempio sul contante si era andati a sbagliare. Nel fare questo e nel depenalizzare tra l'altro l'abuso del diritto, in quel caso integralmente, si è ritenuto, con un dibattito che naturalmente aveva varie sfumature diverse, ma me ne faccio carico anch'io come componente di governo, si è ritenuto però opportuno inserire appunto una fattispecie volta a censurare chi in un contesto in cui l'abuso del diritto per la gente, no, per il contribuente, non è penalmente rilevante, chi di professione fa il dispensatore di schemi elusivi. Chiaro che è una norma, sono d'accordo, che si presta a un certo spazio interpretativo da parte del giudice. D'altro canto, tutto ciò che riguarda l'elusione, lo sappiamo benissimo, è inevitabilmente molto messo nelle mani dell'interprete. Però l'elusione attenzione. È aggirare gli schemi normativi, quindi andare su qualcosa che non è codificato, quindi è per definizione incodificabile. È evidente che questo tipo di fattispecie dovrà essere applicata insomma con ragionevolezza. Ecco, io spero che non diventi un mostro. Certo, ci aspettiamo molta ragionevolezza, Enrico, su questo ovviamente. No? E mi sembra un appello da legislatore. Usate la ragionevolezza, ma per favore, Enrico, ma per favore. Assolutamente, e monitoreremo con attenzione, naturalmente, che anche da parte delle procure non ci sia un utilizzo improprio, però sottolineo in un contesto in cui l'abuso del diritto in sé viene depenalizzato ed è una scelta che molti giustizialisti ci contestano fortemente, ma che noi difendiamo con convinzione. Tu dici dovevamo riequilibrare da un'altra parte. È chiaro che chi è una sorta di dispensatore di schemi elusivi seriali e quindi e lo propone a uno, e lo propone a due, lo propone a tre e viene rinvenuto quindi come un vero e proprio architetto. Certo, mettiamo in galera i cattivi maestri, perché purtroppo facciamo così, va bene. Evidente che la cosa dovesse essere considerata. No. Poi sono d'accordo. La definizione puntuale è relativa, ma ripeto, lo sappiamo, quando però, si parla di ciò che è abuso del diritto, la codificazione perfetta della fattispecie è Enrico, faccio un esempio concreto. Siamo arrivati alla soluzione in Cassazione questa settimana di Dolce & Gabbana, caso che, vista le carte fin dall'inizio, mi ha visto scrivere a difesa della totale legittimità di quella scelta ordinamentale fatta in maniera esplicita, collegata a riorganizzazione aziendale dell'allocazione di asset di proprietà di asset immateriali dell'azienda in ordinamento che avevano tassazione più agevolata, tutto alla luce del sole dichiarato. Mi sono beccato anni di insulti. La Cassazione alla fine dà ragione a Dolce & Gabbana, però per essere chiari, con questo nuovo reato si applicava sicuramente ai consulenti professionali di Dolce & Gabbana, sicuramente. Allora, io non lo so, io quando vedo questa proliferazione di reati con pene che si impennano per chi fa il mestiere di consulente per le imprese, mi viene sempre un po' da riflettere. Soprattutto perché a livello internazionale la concorrenza fiscale è fondamentale per dare disciplina, quindi abbiamo chiesto Enrico, è giusto, lo supportiamo, ma è giusto anche che lo pungoliamo. Intanto lo dobbiamo salutare perché siamo in ritardo come sempre, e poi adesso apriamo il nostro occhio sulla Cina tra un minuto. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... I conti della Belva. Eccoci tornati qui dopo aver commentato anche questo nuovo reato tributario della commercializzazione di schemi di evasione tributaria, fino a 9 anni di galera per i commercialisti. In galera, come ovvio, basterà spiegare a qualcuno che ci sono paesi in cui si paga meno tasse, tutto gli ho sotto gli occhi, l'eccezione, però a quel punto lo Stato italiano, dice il commercialista, sei un commercializzatore seriale di schemi di evasione. Che paese liberal fascista autarchico, mi dispiace, questo, ma questi proprio sono i segni del nostro di fondo. Allora, cari amici, come facciamo tutte le settimane, a questo punto scatta una sigletta. Una sigletta. Have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The Shisanwu. The what? China's 13th five-year plan. Ecco, yeah. No, è il jingle, è il bellissimo video ufficiale del 13° piano quinquennale che si sta decidendo in Cina. Potremmo farne uno per la legge di stabilità, se no, con Casa Day, per esempio. Ma guarda, se, cioè, non ho capito, no? Se lo fanno loro. Comunque, viva questo cinese, perché è un prodotto bello, secondo me, posso dire la verità. Sti cinesi chi li ammazza, come dice sempre Forchieri. Ma figuriamo. In Italia non voglio immaginare la comunicazione di Renzi, che cosa tirerebbe fuori. Per esigenze, facciamo finanza per esigenza di comunicazione, quindi un po' di jingle. Farinetti e cose di questo genere. Ci troveremo con Italy e Ceco e così via. Allora, con la nostra insostituibile Rita Faticuso, corrispondente del Sole 24 Ore della Cina, che sabato ci ha descritto come le fa piacere stare in un paese dove i maschi sono ridotti anche al ruolo di cicisbei, perché questo è quello che ci ha detto Rita la scorsa settimana. Oggi invece con Rita, che saluto e ringrazio, ci sei Rita? Sì, ci sono, un po' raffreddata perché ieri c'è stato uno spruzzo di neve, la temperatura qua è abbassata drasticamente, però vabbè, sopravviviamo, è meglio così che non… sì, fa freddo. No, a questo punto tutti gli ascoltatori hanno capito che stai facendo un paragone e poi te lo sei rimangiato, però va benissimo. Allora, beati voi. No, ma che beati a Milano voi, dai, stai nel cuore del mondo nuovo, stai, e noi siamo in un mondo vecchio, declinante… Questo è vero, sicuramente è molto interessante stare qua perché qua può succedere di tutto. E di cosa parliamo questa settimana? Beh, io devo dire che siamo stati molto solerti noi del Sole 24 Ore, cioè io, abbiamo dato abbastanza in tempo reale questo draft, questo diciamo testo che finalmente è uscito sul piano quinquennale, e abbiamo scoperto che c'è questo riferimento a una specie di desiderio proibito che la Cina ha e che riguarda la sua moneta e che vorrebbe che finisse dentro il salotto buono delle monete mondiali. E, vengo anch'io. Un po' questo è il discorso. Allora, c'è il governatore Pippo Smet. Ti faccio notare che dice, quando dici vengo anch'io, not to no, si sente solo il vengo anch'io, perché sul not to no le autorità cinesi abbassano il volume. No, ma nel senso che questa moneta cinese. Vediamo cosa vuol dire entrare nel salotto buono del Fondo Monetario. Cosa vuol dire? Allora, la moneta cinese è una moneta che non è convertibile, nel senso che è una moneta che non si può, cioè non ha un valore di scambio assolutamente, perché sta dietro la muraglia, dentro la muraglia, e quindi si può convertire, cioè scambiare con altre monete solo in determinate situazioni, in determinati hub, in determinate posizioni, tipo Londra piuttosto che… Ecco, un movimento molto particolare. E una invece? Che non si può, e invece? Invece loro adesso, Pechino e Xi Jinping, vogliono, e l'hanno scritto persino dentro questo fatidico quinto piano quinquennale, il tredicesimo, che governerà le scelte del paese di qui fino al 2020, loro vorrebbero che entrassero nel paniere delle monete del Fondo Monetario Internazionale. A marzo scorso io ho assistito direttamente a una richiesta in tal senso da parte del governatore della People's Bank of China, che ha chiesto alla Christine Lagarde: quando ci fate entrare? Ovviamente bisogna poter entrare nel paniere solo se la moneta è convertibile. Quindi vengo anch'io, non tu no, vuol dire questo. Allora, cioè, una moneta. Mettiamola così, però, da una parte gli Stati Uniti, che sono sempre, insomma, coloro una cui larga parte del debito, sia sovrano che corporate, ha trovato dal 2001 in avanti il più grande acquirente da parte cinese, è interessato a questa faccenda qua. Dall'altra, come si fa a entrare in quel salotto buono se la moneta resta non convertibile? Non si potrebbe, in teoria, bisognerebbe trovare una deroga. Ecco, perché in realtà per i cinesi c'è un aspetto che per un verso è tecnico, e cioè nel paniere possono entrare soltanto monete che possono essere convertibili, e quindi tecnicamente bisogna trovare l'inghippo, qualcosa per farlo superare. Secondo, c'è un problema di faccia la faccia è una cosa molto importante per i cinesi vogliono contare di più sullo scacchiere mondiale. E anche la loro moneta, che pure è abbastanza scambiabile in alcune aree, tipo sud-est asiatico, a livello commerciale, a livello di rapporti con paesi con i quali Pechino ha un ascendente economico molto forte, però si arriva a un certo punto e tecnicamente non c'è la convertibilità. Quindi a fine, nella seconda metà di questo mese, negli Stati Uniti bisognerà prendere una decisione. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha detto che deciderà, bisognerà decidere entro il 31 dicembre, perché questo è l'anno in cui il paniere viene rivisto. Allora, la mia opinione secca, rapidissimo giro di questo tavolo, è: io mi auguro che l'Europa faccia pesare la sua voce, e la mia voce è questo: consentire una deroga a un percorso stabilito esplicitamente a tappe inderogabili della piena convertibilità, senza di questo consentire ai cinesi l'ingresso, significa minare ulteriormente il meccanismo di fondo dei cambi tra macro aree nel nostro paese, e consegnarsi coi polsi stretti alle decisioni politiche di una moneta il cui cambio è solo nelle mani della politica cinese. È un errore, sarebbe un errore tragico. Credo che agli americani questo ragionamento fotta poco, piuttosto. Carlo Alberto, che dici? Dico che il sistema di scambi internazionali ha bisogno di una nuova governance, e questa è l'occasione per discutere. Sicuramente delle strade a scorciatoia per beceri motivi politici di breve termine minerebbero ulteriormente la fiducia già scarsissima sul sistema di scambi internazionali, che andrebbe profondamente rivisto. Rita, perché... che dici? Come finisce secondo te? Ma io dico solo che se oggi, adesso, in questo momento, la moneta fosse convertibile, lo yuan, la Cina deflagrerebbe, ecco. La Cina non è in grado in questo momento di questo sostenere. Gli americani dicono: cari liberisti, state zitti, perché abbiamo una priorità da evitare, perché mica vogliamo mettere in cortocircuito il sistema del credito, lo shadow banking cinese, proprio mentre questo è il problema fondamentale di un paese cui debiti locali ne abbiamo, insomma, ne parleremo. Però attenzione, cari ascoltatori, questa scelta di fondo, per l'ennesima volta la Cina ce lo fa, ci mette con le spalle al muro, perché è la nostra debolezza a rendere forte la sua richiesta di deroga. Grazie Rita, ci risentiamo sabato prossimo. Strade, autostrada pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. vi presenta della belva. Ed eccoci tornati per l'ultimo rush finale in diretta di tutti i compari dei conti della belva, che si sono comportati molto male con voi ascoltatori oggi, perché non abbiamo letto gli sms, abbiamo chiamato la telefonata, almeno una la vogliamo fare, però dobbiamo scusarci. La prossima settimana, giuro, parliamo meno noi, più telefonate, perché voi chiamate, vi mettete lì e poi dite: ma che cavolo, se non mi fate parlare. Annalisa da Roma, prego. Buongiorno, buongiorno. Volevo innanzitutto ringraziare per questo programma, perché secondo me date veramente un servizio, e secondo me dovete picchiare ancora un po' più duro. Che a volte bello. Siete un po' troppo soft. Annalisa, però no, io troppo soft. No, vi prego, ancora un po' mi ci metto paga l'avvocato. No, soft no. Picchiare duro, perché la gente se ne è veramente rotta le scatole di chiacchiere. Quindi quando avete qualche politico, andate di giù pesante, che la gente vi ringrazia. Grazie Annalisa. Grazie. Però volevo volevi dire una... sì. Volevo dire solo una nota molto da profana, molto semplice, riguardo alla proposta che ha fatto il presidente dell'INPS. Io dico semplicemente questo: ben venga la gente propositiva, che non mi interessa se è il presidente dell'INPS, chiunque sia, l'importante è che si proponga e si critichi di meno. Quindi in generale, che lui sia il presidente non è importante, ha fatto una proposta, prendiamola. Annalisa aderisce alla considerazione di Carlo Alberto. Proposta ben fatta, viva le proposte. Brava Annalisa, anch'io sono d'accordo. Naturalmente i politici invece dicono: presidente dell'INPS, muto, zitto. Questo ovviamente il politico tende a ragionare in una maniera diversa, però non fa proposte altrettanto corredate, no? di dati, di seri riferimenti e così via. E ora Renato, non ti resta che farci andare via un po' più allegri con qualche esempio del non si può fare a fine trasmissione. Allegri, perché ormai la prendiamo in allegria, perché siamo, come dire, un po' rassegnati a quello. Credevo facessi una battuta sul noto allenatore Allegri, che non ha molti motivi per essere al club. Però vabbè, okay. No, io purtroppo sai che non sono molto calciofilo e quindi non mi viene in mente la questione. Allora, vi vedo agitati sugli SMS, ragazzi. No, in realtà no, era una cosa, un problema tecnico, diciamo. c'è una ascoltatore dice: ma io che trasferirò l'azienda all'estero per sopravvivere, che consiglierò alle aziende, ai miei clienti, di andarsene. 9 anni di galera. Certo, sei seriale, se la chiappano sei seriale, un commerciante seriale di schemi di ma si può fare un reato sui commercianti seriali? Sembra il titolo di un romanzo. Vabbè, ma adesso poi la prossima volta ho visto che c'è uno dei nostri ogni tanto ospiti che su quale stiamo dibattendo su Twitter su questa cosa, quindi magari poi ne parliamo la prossima volta. Allora, come al solito, l'Agenzia delle Entrate va fino in Cassazione. Sapete che l'Agenzia delle Entrate è il nostro, per me Oscar, sono da noi molto amati. Sì, amatissimi. E sono andati fino in Cassazione perché probabilmente loro hanno una schiera di avvocati lì a disposizione che non ha nulla da fare, oppure vogliono andare in Cassazione così stabiliscono i precedenti, per accusare un commercialista non di evasione seriale, ma perché aveva fatto 72 trasmissioni di denunce dei redditi senza fatturarle, e le ha fatte a persone che erano socie di società di persone alle quali aveva fatturato le denunce delle aziende. E per una cosa di questo genere l'Agenzia delle Entrate è andata in Cassazione e ha cercato di dire che non è possibile che lui non fatturi quando aveva già fatturato. Aveva già fatturato. Peraltro. Allora, io quello che volevo dire, non so chi sia questa persona, chi sia il commercialista, chi sia che è andato fino in Cassazione, ma volevo dirgli che è un eroe. Certo. Perché una persona che resiste a l'Agenzia delle Entrate, che fa quel mestiere e va fino in Cassazione per difendere i nostri diritti. Esatto. Perché bravo, difende bravo, i mi nostri piace, diritti. Mi piace questa cosa. Mi piace. È un eroe. Nel senso che secondo me le associazioni di impresa, tanto per dirne una, dovrebbero istituire dei premi a favore dei professionisti tributari che in questo caso, come dici tu, si battono a proprie spese, ma in realtà tutela di tutti i contribuenti per cui lavorano. Ecco, sono quelli a che lo Stato non sopporta, perché lo Stato dice al commercialista: oh, tu bello, sei un mio funzionario, ti devi fare pagare dai privati, ma tu devi fare quello che dico io. Beh, ormai fa tutto il commercialista, fa tutto il lavoro. Quindi hai ragione a tirare fuori questo caso, mi piace proprio. E poi un'altra cosa divertentissima che ho letto l'altro giorno, che è entrata in vigore la riforma dei reati tributari, esatto, che è quella di cui parlava prima Enrico Zanetti, esatto, sulle famose nuove versamenti IVA con diverse tetti eccetera eccetera, non punibilità e tutte queste cose qua. Dopo 3 giorni un giudice delle indagini preliminari di Varese ha fatto subito l'eccezione se è compatibile con le normative europee. La notizia è che siamo passati 3 giorni e non 3 minuti, per così dire. E su queste belle considerazioni l'intera compagnia di conti della Belva, Renato, Carlo Alberto, Mario e Oscar vi saluta, vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica e d'accordo, finalmente provateci, scrivete ai politici, basta l'8 per mille, basta a questi cardinali che si fottono i soldi e che ingiurano anche il Papa e la sua credibilità. L'Italia, l'Italia, le vesto, le tempo.